בלו טיים לייב. Siamo abbondantemente oltre le 21. Buonasera da Agostino Spolore, buonasera ancora una volta dal vivo, questa sera con un artista che non ha bisogno di tante presentazioni, che ci è venuto a ritrovare, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima voglio salutare il mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, perché per fare le cose fatte bene bisogna provare, è vero Tolo, quindi le cose fatte bene quindi vanno avanti in una certa maniera. Sì, certamente. Bisogna. Sperando che poi siano fatte bene. Assolutamente sono fatte bene. Però bisogna provare. Bisogna provare, come in tutte le cose, bisogna provare. Il famoso check, insomma. Allora, che dire, ancora una volta insieme, ancora una volta in acustico con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con la musica dal vivo di Tolo Marton questa sera, che ci è venuto di nuovo a trovare. Prima di cominciare con lui vi voglio ricordare i nostri dati, cioè il numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se volete mandarci qualcosa e qualche domanda soprattutto a Tolo, vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88700 e 94600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare tranquillamente in streaming 24 ore su 24, ogni qualvolta insomma lo desiderate fare. E poi ancora siamo su Twitter, siamo su Facebook con semplicemente Blu Radio Veneto 1, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da il nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco, che salutiamo caramente, ma ormai alla fine anche lui sta andando quasi in ferie a riposarsi. Noi invece siamo qui, saremo qui anche tutto il mese di agosto in diretta con tantissimi eventi. Uno di questi è quello appunto che apre il mese di agosto, cioè oggi è primo agosto, è proprio Tolo Marton, a cui diamo il benvenuto, il grazie per essere tornato di nuovo nei nostri studi, Tolo. Grazie a voi, perché buonasera a tutti, ciao a tutti. Io sono veramente lusingato di questo nuovo invito, dopo a solo 2 settimane dalla prima trasmissione che abbiamo fatto di 1 ora e mezza, adesso siamo... Ampliamo. Anche perché mi fa molto piacere, grazie dell'invito. Perché non si può fare 1 ora e mezza con tutto il tuo excursus musicale. Sei partito da molti anni fa e continui a far musica, quindi è riduttivo 1 ora e mezza, Tolo, per parlare di tante cose che hai fatto, quindi insomma, e della tua musica. Ma io penso che 1 ora e mezza sia una bella dose di tempo, però è ovvio che può essere anche poco se si va a approfondire le questioni, ma non per me, ma un po' per tutti noi. Certamente. No? Cioè, quando si vuole parlare un po' più a fondo di tante cose, o proprio anche della propria vita musicale, ci vuole tempo, sì. Certamente. Ci vuole tempo, esattamente. Allora. Il tempo stasera lo abbiamo. Noi ce lo prendiamo. Eh sì, ma stasera l'abbiamo ampiamente, perché no, Renato stasera non c'è, in vacanza anche lui, quindi possiamo sicuramente oltrepassare le 22:30. Allora, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti, caro Tolo? Dove eravamo rimasti? Non abbiamo parlato di Osti. Osti è una città importante, fondamentale per la musica dal vivo. Secondo qualcuno è la città più importante per la musica dal vivo del mondo. Beh, infatti è chiamata la capitale della musica dal vivo. Appunto. No? The capital of the live music. Esattamente. E partiamo proprio loro, da qua. Loro, vedi, che spirito loro, hanno a Austin? Già loro sono già molto più orgogliosi della loro, cioè in America, poi in Texas, c'è questo orgoglio nazionale, campanilismo, per cui tutti tendono un po' a anche un po' esagerare le loro qualità, le loro doti, la loro grandezza. Però è una bella cosa, perché dà importanza e risalto anche agli musicisti locali. È molto importante questo, dovremmo prendere esempio tutti, da valorizzare quello che abbiamo nella nostra città, nel nostro paese, nel nostro piccolo comune dove abitiamo, no? È una bella cosa, dove vale la pena di ciò che bisognerebbe valorizzare sono le cose buone che abbiamo, no? E ne abbiamo. Ne abbiamo parecchie. Austin è così, Austin. Lì ci sono... L'approccio di Tolo Marton ad Austin com'è stato? Io a Austin, ma sono andato lì allo sbaraglio la prima volta, ma proprio così, senza sapere cosa fare, dove andare, che neanche io non sapevo esattamente che cosa... Avevo bisogno di un cambiamento, di trovare aria nuova, perché ero stato, anche per la delusione che avevo avuto verso la fine degli anni 80 e i primi anni 90, ero un po' scoraggiato. Scoraggiato perché le cose non giravano per il verso giusto qui, e avevo come la sensazione che più di così non si poteva fare. Per cui ho detto vabbè, vado in America, provo a vedere, perché come dicevo anche l'altra volta, la sensazione è sempre quella. Ogni volta che incontravo delle persone che venivano dagli Stati Uniti, anche qui in Italia, mi dicevano ma tu dovresti venire qui da noi perché la musica che suoni, eccetera, eccetera, secondo me potrebbe andare bene, potrebbe funzionare. Allora ci ho provato. Ci hai provato? Sì, ho preso l'aereo e sono andato a Austin. In realtà sono andato a New Orleans nell'88, l'idea era di andare a fare base a New Orleans perché avevo degli amici lì, e infatti sono stato un mese a New Orleans e un mese vabbè, ho fatto delle cose, ho contattato un po' la scena musicale, però mi sono accorto che lì la chitarra non era molto importante come strumento. Come mai secondo te? Perché New Orleans è la patria del vecchio jazz, sì, delle bande, degli ottoni, della musica. Dei fiati, così, praticamente. Molto meno della chitarra. Però, dato che stavo per fare un viaggio lungo 3 mesi, ho detto, vabbè, adesso me ne vado anche in altre città. Una di queste è stata proprio Austin, dove mi sono fermato solo una settimana, però in quella settimana sono riuscito a capire, già a farmi un'idea. Tant'è vero che poi da lì sono andato a Chicago per 2 settimane e poi sono tornato a Austin per un'altra settimana per poi rifinire a New Orleans. Però in quelle 2 settimane alla fine che sono rimasto a Austin ho avuto già qualche piccolo segnale di quanto la musica dal vivo fosse importante, e in particolare proprio la chitarra. La prima cosa che mi è successa è andare a fare una jam session al leggendario Anton's, che è un locale proprio di Austin, leggendario veramente, dove hanno suonato tutti i grandissimi musicisti, e lì ho incontrato una persona che mi ha sentito suonare e mi ha detto, che poi è diventato un grandissimo mio amico, che si chiama Keith Haas, e mi ha detto, ma com'è, tu sei arrivato qua e sei già andato su per il palco qui a Anton's con Alan Haynes, che è un chitarrista. Alan Haynes è un grandissimo chitarrista, uno dei migliori secondo me, e questo amico Keith mi disse, io sono un grande fan di Alan Haynes, uno dei sogni della mia vita è suonare con lui, adesso arrivi tu dall'Italia e un battibaleno sei già a suonare con lui. Quindi mi disse tu hai suonato veramente con uno dei migliori stasera. Io ho detto wow, veramente, davvero? Sì, è vero, è bravo, ho detto io. Dopo, in seguito a questo piccolo incontro, questa frase che lui disse, tu hai suonato con il migliore, you played with the best, poi io composi una canzone che si chiama Welcome to America. Un paio di anni dopo composi questa canzone. Questo ricordo stato... di questo primo palco con questo grande chitarrista. Ve la faccio sì, facciamo ve la sentire un momentino. Esatto. È una canzone veramente sincera, ispirata, che è dedicata a Keith. Why nights of April in 89 was lost in that city, a lonely man. I didn't know anyone, but I got my guitar, so I went down to the place what Alan Haynes was playing. Can I jam with you? I said. He said it was okay. So at the end of the night, when he called at me, I tried to move my trembling fingers. Did a song or maybe two, then I walked away. Questo continua. È il ricordo di quell'incontro, praticamente. Sì, sì, sì, sì. Ricordiamo che stasera Tolo non ha portato la sua mitica Stratocaster nera, Fender Stratocaster nera, stasera ha portato di un altro colore, che adesso usi spesso e volentieri questa chitarra, uno più. Eccola qua, sentite che suono che ha, sentite che suono. Sì, questa è una chitarra che uso molto spesso. Quella nera uso molto poco. Però ma nera era la mitica tua chitarra. Sì. Che poi era anche poi quella. Non dovevo portarla neanche l'altra volta. Esatto. Non sono sbagliato. Che era che è successo quell'episodio che della corda. Però, corda però che era bellissima. Era senza una corda. Però sei riuscito a sistemare la corda. Sì, cari ascoltatori, voi non lo sapete, sì, che Tolo ha sistemato la corda e ha suonato un'ora e mezza con una corda pseudo rotta, praticamente. Sì, rotta. E poi questa è due settimane fa. Queste due settimane. E poi dovete sapere che comunque finché provavamo il check prima, Maurizio ha avuto l'onore di suonarla anche quella chitarra. Sì, esattamente. esattamente. È stato un miracolo che sia ancora vivo praticamente. Dimmi. Allora, okay. Tolo, io ti porto già i saluti di una nostra ascoltatrice che si è sintonizzata da poco. Si chiama Vera. Vera. È così, io la saluto caramente, ci sto ascoltando e dice wow, che emozione questa sera, insomma. Ciao Vera, ciao grazie Vera. Di essere in ascolto, grazie molto. E buon proseguimento dell'ascolto di Vera, salutami tutti quanti quelli della band, della troupe. Ciao Vera, un bacione grande grande e buon proseguimento dell'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto con Agostino, appunto, con Maurizio, ma soprattutto con Antolo Martone. Tolo, come adesso che hai rotto le acque, insomma, musicalmente parlando, ce l'hai una canzone o vuoi che ascoltiamo qualcosa dal disco? Ma io direi di ascoltare. Io adesso qui ho portato questo nuovo disco che è finito. Due settimane fa era in corso ancora, non era ancora completato. Adesso finalmente è completo, mixato e tutto. L'unico particolare è che non ho la lista dei brani, sono 16 brani, non ho la lista con me, di fronte a me, per cui non mi ricordo le sequenze esatte. Proviamo a metterne una a caso, cosa dici? Mettiamo la numero 6? La numero 2 l'abbiamo... Ah, mettiamo la numero 2, sì. Quella so cos'è. Quella cos'è? Guarda a caso, quella si chiama Easter Sunday in Texas. Che proprio racconta di un altro episodio in cui ero in Texas nel 1989. E ce lo racconti dopo, magari. Certo. Woman, 1 month ago. I'm a long way from home. I left my woman 1 month ago. And every time I call her on the phone, I say, baby, I'll be back home. I can't stand them all. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua, abbiamo sentito allora un pezzo cantato, suonato da Tolo e la sua band, che ricordava di un episodio texano, vero Tolo? Assolutamente. Un secondo episodio texano. Sì, sì, c'era questo Easter Sunday in Texas, è il giorno di Pasqua in Texas. Di che anno? 1989. Perché io, come dicevo prima, andai negli Stati Uniti, mi fermai lì a Austin, in Texas, senza sapere come cosa fare, cosa non fare, perché il mio orientamento non è molto buono, così non so orientarmi bene nei luoghi e anche certe volte in quello che sto cercando. Certo, cercavo qualche cosa che in Italia non trovavo. Mm. E mi ricordo che il giorno di Pasqua ero lì e sono andato dentro questa chiesa. C'era una chiesa che in mezzo ai grattacieli, in mezzo a questi edifici downtown, no? In mezzo alle banche, in mezzo a queste, c'era queste cose enormi, chiesetta che sembrava, sai, una chiesa delle nostre, sì, così con un'architettura europea. E sono andato alla mattina, sono andato lì in questa chiesa, ho messo i piedi e mi è venuta fuori questa canzone, in seguito anche al fatto di essermi introdotto in questa chiesa. Ero solo, ma solissimo. Non c'era nessuno. E un po' anche triste, diciamo, che ero un po' triste. E è venuto fuori questo pezzo, Easter Sunday in Texas, in cui c'è un verso che dico entrerò in questa chiesa e in ginocchio pregherò Dio. Certo. Per piacere, fammi capire che cosa sto cercando qui. Dammi una direzione, sì, praticamente. Sì. E l'hai trovata però poi la direzione? Penso di averla anche trovata la direzione, e penso anche poi di non averla proprio seguita. Totalmente. No, perché qui la cosa sarebbe lunga. C'è un certo senso di, così io faccio sempre due passi avanti e uno indietro, è il mio carattere, che non è proprio adattissimo al mondo dello spettacolo, al mondo della musica, però la musica è quella parte di me dove riesco a orientarmi molto bene, quindi bene o male continuo con la musica. Ma il tuo carattere è di non ripetersi mai, è quello importante. Di andare sempre avanti, non ripetersi mai. Sai, non proprio non ripetermi mai. Non ripetersi, a grandi linee. Sì, la tendenza è quella di improvvisare molto, e quindi con l'improvvisazione, a seconda dei momenti, cambio direzione, cambio le cose, cambio i suoni, cambio gli arrangiamenti, cambio le scalette durante i concerti, sì, questo è vero. Questo sì, è vero. E c'è una bella tastiera, nel pezzo c'è una bella tastiera tipo Animals, quindi fine anni 60, assolutamente. Chi ha suonato in questo pezzo, ti ricordi, musicisti? In cosa? In questo pezzo che abbiamo sentito. Ma allora, questo è, che abbiamo sentito, è una riedizione di questa canzone, Easter Sunday, perché in realtà Easter Sunday in Texas l'avevo registrata nel 92, poi per un CD, un disco che si chiamava allora Tolo 40 Suonanti. Questo disco adesso è abbastanza introvabile. Quindi è una cosa da collezione. Quindi io ho pensato di ripeterle, di ripetere questa canzone, proprio perché è una di quelle mie che non si trovano più. L'ho riregistrata ma è più o meno così come la registrata. Com'era all'epoca. Forse con un po' più grinta, o non so, meno confezionata rispetto a quella del 92. Con la band attuale, allora, praticamente. Ma in realtà in questo disco siamo in due. Ah, in due, perfetto. C'è Andrea De Marchi che suona la batteria, tutto il resto l'ho suonato io con l'aiuto di un bassista che si chiama Vic Vian, che è uno che suona solo in studio. Ah, è solo un turnista da studio, praticamente. Sì, è un amico molto... un amico che suona il basso. quasi lo dico adesso, è uno sdoppiamento. Ah, ho capito, ho capito. È uno sdoppiamento. ho capito. Si può fare, esiste. Negli anni 60 c'erano molti sdoppiamenti musicali. È uno sdoppiamento che esiste da sempre, da quando ho cominciato a suonare. C'è una parte di me che è bassista, da un'altra parte è chitarrista. Ma c'è qualche strumento che non hai... che non suoni ma che ti piacerebbe aver imparato a suonare? Certamente il pianoforte. Il pianoforte lo strimpello malissimo, ma proprio senza nessuna precisione, nessuna. Però quello sarebbe stato il mio strumento se avessi potuto studiare musica. Magari potevi chiedere a Tony Pagliuca se ti insegnava. Tony Pagliuca... che lo saluto caramente, un caro amico. Di chiedermi di insegnare a suonare il pianoforte. Ma se l'avessi incontrato quando ero più piccolino, sì. che poi ormai mi sono buttato sulle sei corde. Certo. Quanti anni avevi, scusa Maurizio, anni avevi quando hai fatto Smoke Magic? Quando ho fatto Smoke Magic avevo 23 anni. Proprio giovane. 24, sì. Tra i 23, ho appena compiuto 24 anni, eravamo nel 75. Esattamente, 75. Mm-hmm. Sì, dunque adesso ritorniamo al discorso, tu sei stato nel Texas nel 1999, 90, gli anni sì, 90, poi, e poi cosa è successo? Ma in Texas, poi quello fu il primo viaggio nell'89. Il primo viaggio che hai poi fatto. Poi da lì a fine degli anni 90 ci sono andato molto spesso, veramente ci andavo tutti gli anni, mi fermavo 2 mesi, 3 mesi, poi tornavo a casa, poi tornavo in Texas e lì... ho visto che c'erano molte possibilità di andare avanti, di fare anche strada. Io ogni volta che andavo lì, le ultime due o tre settimane di mia permanenza a Austin, suonavo moltissimo, avevo molte richieste. E questo succedeva sempre alla fine del viaggio, poi tornando a casa, perché come sai bisogna anche tornare a casa. Certamente. E ritornando successivamente, non è che riprendevo da dove avevo lasciato, dovevo ricominciare tutto da capo. Cioè perdevi i contatti praticamente. Perché là bisogna starci, perché Austin è una città dove arriva un sacco di gente, tutti i giorni arrivano musicisti da tutto il mondo, tentando di la fortuna, la cosiddetta fortuna, è suonare, farsi sentire, conoscere, anche certo. Imparare ovviamente. Io se fossi rimasto lì, il tempo che sono stato lì totale, fosse stato, anziché suddiviso in tante tappe, fosse stato tutto insieme, messo insieme, probabilmente avrei potuto fare molto di più. Non saresti più tornato in Italia, secondo me, visto che hai suonato col migliore, quindi se uno suona il migliore, ben difficilmente torna in Italia, chiaramente. Sì, questa, ripeto, fa parte del mio modo di non insistere fino in fondo a volte su certe cose e comunque a casa bisogna anche tornarci. Sì, bene o male bisogna tornarci. Sì. Gli affetti sono gli affetti. E una cosa adesso, visto che ci siamo, adesso ci siamo un po' scaldati con la musica da disco, adesso ci scaldiamo con la musica della chitarra di Tolo. Che cosa vorresti suonare adesso, Tolo? A tuo piacimento, visto che il panorama che tu possiedi è enorme, non ci sono problemi per trovare un allora, pezzo. Allora, prendo spunto da... Una volta stavo facendo un sound check, cioè una prova del suono, sì. Prima di una serata, durante... molto tempo fa. E sai com'è? Quando fai il sound check, provi, dici delle cose per microfono, e io ho cominciato a cantare un brano imitando la voce di Bob Dylan. Ah, perfetto. Così, per giocare un po'. E suonandomi e accompagnandomi con la chitarra. Ecco, questo brano qui poi l'avevo fatto per scherzo a questo soundcheck. Dopo ho detto, però che è originale questa idea di... È venuto fuori un arrangiamento di un brano di Bob Dylan che poi è stato reso famoso da Jimi Hendrix. Citiamo anche il titolo, noi lo conosciamo ma mica dopo... tutti lo conoscono. Si chiama All Along the Watchtower. mitico, mitico pezzo. Io dico sempre che l'ho un po' rovinato, ma sì, perché l'hai rovinato? Per prendere, hai dato per una versione tua. Hai dato una versione io tua. Io ho completamente come si dice, straviato, sconvolto il significato, perché è diventato un brano quasi country. Ma originariamente, caro Tor, tu lo sai bene, Jay Hendrix l'ha cambiato totalmente, ma originariamente non era un brano di quella intensità hendrixiana, a parte di Dylan, era ben diverso. No, non era diverso, sì, era sì, diverso. Beh, Hendrix l'ha suonato alla Hendrix. Esattamente. E quindi capolavoro. E invece io ho fatto una cosa un po' giocosa. Alla Tolo. Ed eccolo qua. Facciamo, non lo faccio per intero. There must be sunk on the way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman drink my wine. Plumbman dig my herd. None of them would get out of line. No one knows where this world. No reason to get excited. This is a countless spoke. There are many here among us who feel life is but a joke. You and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk for now. The hour's getting late. It's getting late. Così. Va bene, questo è un po'. È un po' Tex-Mex. Sto pezzo, cosa dici? Eh? Un po' Tex-Mex. Tex-Mex. Sì. Terra di confine. Con un'imitazione un po' di un banjo. Sì, un'imitazione di un banjo. Con la chitarra un po'. Questa l'hai incisa anche nel 1999 in Colors and Notes. Però è stata incisa anche per una compilation di Dylan del 2003 della BMG, vero? Sì, poi sì, non so come, ma è finita. È stata ascoltata da un manager, da un chief, un dirigente della Sony, della BMG, sì. Che in Germania, o adesso non ricordo neanche in Olanda, in Germania, che mi contattò. Allora mi disse se volevo, se avevo, ero d'accordo che poi questa versione mia fosse inclusa in questa compilation molto importante, certo, di brani di Bob Dylan, perché è la compilation numero 3, sì. Esattamente. Aveva altri artisti famosi in tutto il mondo. Ti ricordi qualcuno di quegli artisti? No, va bene. Passato troppo tempo. No, ma personaggi di grosso calibro. Di, come si dice, pezzi da 90. Sì, sì. Adesso non direi cretinate perché non mi ricordo, non voglio far nomi se non me li ricordo, però so che erano cose molto importanti. Sì. Eh beh, quando si parla di Dylan. Sì. Non erano proprio personaggi, adesso non, a livello di, non so, Bruce Springsteen, capito? Sì, certo. Non c'era Bruce Springsteen, ma siamo su quel livello, lì, adesso non mi ricordo i nomi. Benissimo, quindi abbiamo citato anche un pezzo di Dylan, fatto riveduto e corretto country con il banjo da Tolo. No, è la chitarra sempre che imita il banjo. La mia chitarra è un po' ventriloqua, no? Vedi, è la chitarra che usi abbastanza spesso questa cosa, eh? Okay. Non so se te l'ho chiesto l'altra, l'altra volta, ma quante chitarre possiedi, Tolo? Quante chitarre possiedi per i tuoi concerti? Ne cambi spesso o usi specificatamente sempre quella? No, io uso più o meno sempre la stessa paio di chitarre, perché non me ne bastano due. È sufficiente. A volte sono due Stratocaster, a volte è una Stratocaster e una Gibson. Poi sai, la Stratocaster, quando incontra la Gibson, succede cose del tipo queste. Perché quando una Stratocaster incontra una Gibson, la Stratocaster è una chitarra morta. No, quando un uomo con la Fender Stratocaster incontra un uomo con la Gibson Les Paul, quello con la Fender Stratocaster è un uomo morto. hai detto, vediamo se è vero. È un duello, praticamente. È il duello, perché sì. Qui c'è la citazione di Ennio Morricone, sì, esattamente, e di Sergio Leone, naturalmente. Per chi conosce i film di... Io sono un appassionato di film di western. Di western, sì, infatti, non solo quelli americani, ma anche quelli di Sergio Leone, che sono stati innovativi, gira. Diciamo, hanno proprio completamente rivoluzionato il modo di fare il cinema western. Infatti gira su YouTube un video che tu fai un medley su di Morricone. Sì. Ce lo fai magari, hai voglia? Più di uno ce n'è, ma perché... E poi ne ho sentito anche un altro, Tolo, dedicato alla musica quasi western. La musica? Country western. Country western. Anche sì, quello ma questo medley di Morricone, che poi non ha solo musiche di Morricone, ma la maggior parte sono degli arrangiamenti. Sì, lo suono da tanti anni, da tantissimi anni. Saranno 20 anni che io propongo questa musica di Morricone, un po' semplificata, perché non c'è l'orchestra, ma che fa sentire le cose salienti, non so. Sai quelle cose? E devo dire che sono le prime cose che ho imparato, che ho provato a imparare a suonare quando ho preso in mano la chitarra, perché la musica di Morricone, se l'avete ascoltata, è molto particolare, piena di rumori, di cose che definiscono proprio l'ambientazione di questi villaggi messicani, dove polverosi, eccetera, caldi, assolati. Che Morricone non si sia ispirato all'inizio di carriera agli Shadow, cosa dici? Ma sì, a quell'epoca lì, nei primi anni 60, c'erano questi suoni di chitarra molto dilatati. Sicuramente, sai, i chitarristi che suonavano per Morricone avevano queste influenze, ovviamente. Certo, certo. Gli Shadows, per cui queste chitarre stoppate. Mitica Pash. Però lui, poi Morricone, aggiungeva altri suoni, altri rumori, per esempio, non so, e io con la chitarra cerco un po' di ricordare, di far venire in mente queste sonorità. Fai venire in mente i film in questo momento, assolutamente, gli spezzoni cinematografici. Ce ne fai un pezzo lungo? Di cosa? Di Morricone? Sì. Sai, non è mica facile quello che chitarra vuoi da sola così. Quello che vuoi. Ma provaci. C'è questo tema, quello del duello di Gian Maria Volonté e Clint Eastwood. Del primo film, il secondo film, che si chiama Per un pugno di dollari, no, per qualche dollaro in più, dove c'è questo tema qui. Mm. anche, aspetta che è scordato, immaginato lì era fatto con l'organo, no? Con un organo da chiesa. Da chiesa, sì. Sì, io potrei provare a fare, vediamo. Una cosa ti volevo chiedere, come riesci, cioè è difficile riadattare un pezzo di Morricone? La scrittura di Morricone è semplice secondo te, Tosi? No, vero? Un po' complicato. Ci sono, nel caso dei film western, è secondo me abbastanza semplice. Mm. Quello che non è semplice è ricreare i vari suoni, i vari colori perché lì ci sono delle percussioni, certo, con degli echi, ci sono delle voci. Lui usa le voci come strumenti, poi ovviamente ci sono dei altri brani più elaborati, più anche più difficili armonicamente, altre colonne sonore che lui realizzò nel corso della sua carriera, anche i film che, sempre di Sergio Leone, quelli dopo, tipo C'era una volta, sì, in America, o anche c'era una volta il West, certo. Mi viene in mente un altro pezzo, C'erano molto questo, che era eseguito proprio con banjo. Adesso credo che sbaglierò perché veramente non ho mai. No, vediamo. Sì. Questo è Charles Bronson che cammina. Sì. Esatto. Ferrovie davanti, c'è, cioè il treno che corre. Che era l'addio a Cheyenne, c'era, sì, l'attore che muore in un duello e però non è ancora morto, no? Si sente questa musichetta che rallenta, sì, in questo banjo, sì, perché ogni personaggio aveva il suo motivo, no? Certo. Aveva la sua musica, il buono, il brutto, il cattivo. Ognuno aveva il suo temino, quello, appunto questo qua. Questo era Clint Eastwood, sì, per esempio. Esattamente. Poi, beh, sì, decisamente, incredibilmente bello, affascinante. Molto bello. Io veramente vi consiglio di andare a girare su YouTube. C'è questo medley creato da Tolo Morton con la sua band al Terminal, se non mi ricordo male, quello che si sente bene. E potete sentire una decina di minuti con circa queste melodie di Ennio Morricone, quindi vi ricorderanno tantissimi film della produzione. Ma c'è un altro bel pezzo che vi accenno perché è troppo bello, che è invece questo è di un film west degli anni del 54, che è di Mezzogiorno di Fuoco. Wow. Sì. C'è questa High Noon che era stupenda, si può fare anche in tanti modi, ma anche molto un po' più rock, tipo "Not forsake me, oh my darling, on this I wait and day. Do not forsake me, oh my darling, wait alone. I do not know what fate awaits me." Invece nel film era "Do not forsake me, oh my darling." Boh, alla Presley praticamente. "On this our waiting day, do not forsake me, oh my darling. Wait along." Eccetera, eccetera. Tu l'hai fatto rock, giustamente. Sono un sentimentale. Sì, però un sentimentale che è svolta nel rock qualche volta. Si può fare la musica, si può arrangiare come si vuole. Indubbiamente. L'importante è che sia i temi musicali che siano interessanti e belli. Poi c'è una cosa interessante, oltre a aver istituito una band con 5 chitarristi, questo alla fine del 99, all'inizio del 2000. Poi è suonato nel 2001 in uno spettacolo teatrale con Marco Paolini, si chiamava Carta Bianca, te lo ricordi questo? Certo. Come mai questo collegamento, questa vicinanza con Marco Paolini? Perché hai deciso di fare questo spettacolo teatrale? perché nella, dopo che vinsi il concorso di, dedicato a Jimi Hendrix nel 98, feci un incontro con Mario Brunello, che è un grandissimo, conosciutissimo in tutto il mondo, violoncellista. Lui è trevigiano, anche lui nella provincia di Treviso. E lui, oltre a essere un musicista classico del valore, di un valore mondiale, di portata mondiale, però è anche un appassionato di musica anche rock, un po', cioè lui è un po' ribelle, non è che sia quei musicisti classici che non sconfinano mai in altri campi, ci conoscemmo perché lui mi disse, lui è un po' più giovane di me, disse: io venivo anche a sentirti a suonare quando suonavi a Crespano del Grappa, al Musica Viva. E così mi contattò, tra l'altro mi chiese anche di fare un concerto al Teatro Comunale di Treviso, che si realizzò questa cosa qui. Ma dopo ci frequentammo per quel periodo e provammo a suonare un po', lui e il violoncello, io la chitarra, e facendo delle cose un po' contaminandoci, cioè magari io suonavo la chitarra qualche pezzo un po' classico e lui suonava cose di Jimi Hendrix col violoncello. Perfetto. Io ho un'idea, dato che io, mi disse Mario, io collaboro con Marco Paolini molto spesso e volevo proporgli di fare un trio, noi tre, e provare a fare qualcosa, divertirci prima di tutto, però mettere insieme le nostre esperienze, la nostra cultura, le nostre diversità e fare qualche cosa. Infatti questa cosa si realizzò con un progetto che si chiamava Carta Bianca. Esattamente, questo è del 2001. Sì, con questo spettacolo debuttammo al piccolo teatro di Torino. E poi andammo avanti un po' per qualche anno facendo questo spettacolo in altri teatri. E era interessante perché, come ti dicevo prima, Marco recitava, era la voce narrante, passava a tante cose, cioè in questo spettacolo c'erano tanti elementi. Tra cui c'erano, non so, anche delle frasi riportate di Jimi Hendrix, no? Che raccontava, però. Jimi Hendrix raccontava delle cose, delle sue prime esperienze. Allora magari, mentre lui raccontava, Brunello suonava Little Wing col violoncello. Che no? Sta benissimo. E poi magari io gli davo il cambio, suonavo un pezzo di Bach con la chitarra a mo' di banjo, come ho fatto prima con All Along the Watchtower. Molto bella, molto bella. Era una cosa veramente diversa, esatto. Divertente. È stata una bellissima esperienza. Senti, Tollo, in scaletta adesso c'è una canzone che tu hai scelto di Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Perché hai scelto Big Yellow Taxi da Ladies of the Canyon? Che poi l'ascoltiamo. Chiaramente. Anzi, l'ascoltiamo prima e poi ci spieghi perché. Facciamo sì, certo, così. Certo. La sentiamo prima. Dai. Ok. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night. you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Up a parking lot. .22:08 ancora con Agostino e con Maurizio. Questa sera eccezionalmente facciamo una serata lunga dedicata alla musica che sentite sottofondo di Tolo Martone e i suoi gusti musicali, ovviamente. Questa era Johnny Mitchell con Big Yellow Taxi. Adesso Tolo ci spieghi perché hai voluto ascoltare questa canzone. Tanto è un classico. Questa era, è un classico, sì. Poteva essere qualsiasi altra di Johnny Mitchell, sì. Io ho scelto questa adesso perché con me avevo solamente questo disco, che è The Lady of the Canyon, e per me Johnny Mitchell è stata importantissima, una delle artiste americane che apprezzo di più, che ho sempre apprezzato di più. Big Yellow Taxi è una delle poche canzoni un po' sbarazzine di Johnny Mitchell, che invece è una cantautrice molto anche seria, molto, molto profonda. Anche, socia- è una anche socialmente profonda. Molto, molto divertente. Cioè, certo. L'ho scelta per questo. Ma ci sono delle canzoni meravigliose, Johnny Mitchell. Lei, assieme a Crosby, David Crosby, Steve Stills, Graham Nash, oppure anche Paul Simon, sì. Simon Garfunkel, sono tutti artisti che ho ascoltato molto. Della West Coast, Neil Young, che è canadese come lei. Come lei. Dobbiamo dire, sì, una cosa, beh, forse gli ascoltatori lo sanno, ma tu lo sai sicuramente: grazie a Johnny Mitchell e a Carole King è stata sdoganata la figura femminile nel rock americano. Sono state loro, le due grandi donne della musica rock, sì, che hanno portato a conoscere la musica al femminile. Una volta la musica femminile era poco conosciuta, se si esclude John Baez, non era così conosciuta. Grazie a loro c'è stata un'esplosione, è bello, è positivo secondo me. Sì, sì, certo. Prima di loro la musica femminile era un po' più commerciale, un po' più pop, così, o country. Invece la musica, non che non fossero bravissime anche le altre, però loro hanno portato più profondità nella, esattamente, nella musica. Per Johnny rappresentava la crema della West Coast. Sì, sì. Johnny vuol dire Ghost Coast, quindi tu hai citato Crosby, Nash. Cioè proprio, era l'ispiratrice della West Coast. Poi sono arrivate altre come Ricky Lee Jones, sì. Però Johnny Mitchell sicuramente è una voce inimitabile, fantastica, è una compositrice fantastica. E poi devo dire che come lei suona la chitarra e anche il pianoforte, ha una sonorità immediatamente riconoscibile, proprio personalissima. Si capisce immediatamente che è lei, che quando è lei, col suo lei tocco. Suona, è una polistrumentista ed ha un modo di suonare, di accompagnarsi, che è unico, si sente subito anche dalla certo, chitarra. Poi ha attraversato tanti terreni, tante vie, ha fatto un disco su Mingus, quindi è una, sì, cosa molto polietica. Esattamente. È passata dalla musica folk alla rock, alle ballate, poi si è data anche andata verso il jazz. Esattamente, anche quello. Jazz rock, ha suonato con Jaco Pastorius. Sì, quindi con i più grandi. Assolutamente. Sì, sì, con è una persona costantemente alla ricerca di novità, di rinnovazione. È una creativa, una che cerca, sì, che sperimenta, ha sempre sperimentato. Adesso si è un po' fermata, però ha detto che era un po' stanca. Non so se abbia voglia di incidere un nuovo disco. Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, perché è stata delusa dalle case discografiche come te. Beh, assolutamente. Lei comunque è stata importantissima e posso immaginare, io non lo so, ma posso immaginare che ormai anche una certa età, chiaramente. Lei ha dato tantissimo, si è sempre rinnovata, certo, e credo che possa essere ben soddisfatta della sua carriera, della sua carriera, di quello che è riuscita a fare e anche dell'apprezzamento del pubblico. Allora, siamo arrivati al 2001 con Paolini e il tuo spettacolo. L'anno successivo c'è il grande incontro con Ian Paice. Ah sì, Ian Paice. È solo un accennino. Ian Paice. Sì, Ian Paice è la prima volta che ho suonato, la primissima è stato quando lui era venuto a suonare dalle mie parti per fare uno stage di batteria e poi il concerto. Mi ricordo che quella sera suonò con una cover band di Deep Purple e ho detto aspetta che vado a sentirlo. Così. Io non li avevo mai visti dal vivo di Deep Purple. Vado a sentirlo e sono andato lì e poi gli organizzatori, quando hanno visto che ero lì in mezzo al pubblico, mi hanno invitato sul palco. Uh-huh. Ho detto dai, vieni a fare anche tu un pezzo. E suonammo proprio Smoke on Water e anche il Red House di Jimi Hendrix. Certo. E lì, da lì ci siamo conosciuti per quel poco di tempo di quella serata lì che abbiamo avuto l'opportunità di parlare assieme. Però dopo un anno sono stato chiamato a suonare con lui proprio un concerto per intero e mi chiamò Ivano Bosello, che è un amico ora, allora non lo conoscevo, lui mi chiamò, è un grande appassionato di hard rock e soprattutto di Deep Purple, e mi disse vorresti fare un concerto assieme a Ian Paice, che voglio organizzare un concerto a Mestre per l'Avis. Ho detto come no. E facemmo un concerto, ma la cosa molto bella, una delle cose belle di questa collaborazione è che Ian Paice accetta e si diverte di fare brani che non sono nel suo repertorio. Tutti gli chiedono di suonare i pezzi di Deep Purple. Io ho detto magari proviamo a fare anche qualche brano di altri che ho composto anch'io. Chiaramente. E lui ha detto perché no, sì certamente. E lui si è ascoltato i brani e quindi alcuni brani ogni volta che suoniamo assieme facciamo anche dei brani non dei Deep Purple brani miei o altri cover di altri autori. Sì. Insomma, praticamente. È un batterista. Come lo quantifichi come batterista musicalmente? Come lo qualifico? Cioè, ma io adesso faccio fatica a scindere le due cose perché lo conosco come persona, come amico, insomma. Ma è scontato dire che lui è un caposcuola della batteria rock. Ha fatto scuola, è un batterista leggendario, l'hanno ascoltato tutti, ha un sound suo, certo. Come i grandi stilisti, come tutti i grandi stilisti è riconoscibilissimo, c'è un modo di suonare che il suono, basta ascoltare i primi dischi Made in Japan, per esempio di Purple, quello dal vivo del 72, e devo dire che prima di Ian Paice o di John Bonham, i miei due centesimi, come dicono, my two cents, cioè mia modesto così osservazione è che prima di Ian Paice, di questi batteristi, non esisteva il batterista rock. Esisteva il rock, esisteva il rock and roll, ma non esisteva il batterista rock. Cioè era un accompagnamento, il batterista duro così. Ma esistevano i batteristi jazz, sì. I grandi batteristi jazz. E mi sembra che c'è stato quel periodo là, alla fine degli anni 60, che dei batteristi jazzisti, che sono fondamentalmente tipo Mitch Mitchell, Ginger sì. Baker e anche Ian Paice, che si sono ritrovati a suonare con dei chitarristi invece non jazzisti, ma di derivazione blues rock. Sì. Come Jimi Hendrix, certo. come Ritchie Blackmore, come Jimmy Page, e suonando questo modo di suonare la batteria, un po' più pesante di come suonavano i jazzisti, ma è un po' riduttivo dire questa cosa qua. Comunque è venuto fuori questo genere nuovo di musica, che può essere l'hard rock, l'acid blues, il cream, i Deep Purple, i Led Zeppelin, poi dopo da lì ripeto, lui è un caposcuola, Ian Paice, perché dopo da lì gli altri batteristi proprio sono andati al rock. Certo. Invece in Ian Paice si sentono ancora questi accenti, questi influenti del jazz. Perché lui viene dal jazz praticamente. Sicuramente viene dal jazz, sì. Decisamente. Anche se Bonzo, non so se provenisse dal jazz Bonzo. Ma secondo me quando si è cominciato a parlare di batteristi rock con loro, però come dicevo prima, le canzoni rock c'erano già da prima, ma non c'era il virtuoso della batteria. Esatto, non c'era il virtuoso. C'era dei semplici accompagnatori. È vero, che suonavano. Che suonavano le percussioni. Guarda, anche nei Beatles. Sì, Ringo faceva un... Ringo, che è un batterista fantastico per la musica che facevano loro, certo. Va bene, però non è un virtuoso, no, assolutamente non è stato no. mai considerato un batterista che portante come era poi come è successo. Lui era un batterista, un semplice batterista, non che non fosse innovativo, ma Ian Paice, Mitch Mitchell, Ginger Baker, John Heisman, soprattutto John Heisman di Colosseum, loro hanno portato delle influenze jazz nel rock, nel blues, certo. E questo ha contribuito a far sì che questa musica fosse una musica completamente diversa, completamente nuova, perché era una miscellanea di tanti generi. Certamente. E adesso che musica ci fai sentire? Ci suoni qualcosa tu, di tuo? Non ho idea. No. Un pezzo mio. A tuo piacimento. Avete qualche... Quello che provavi all'inizio, prima di andare in trasmissione, provavi sempre un pezzo tuo, che è molto bello. Il pezzo che apre quella compilation che abbiamo sentito 2 settimane fa, era bellissimo. See the time. Questo pezzo qua è un brano che si chiama See the Time, ho composto nel 77. È un pezzo che poi io dedicai a Rory Gallagher, altro grandissimo. About when you told me so many things, now I don't know you anymore. After all these years, I guess you have gone through some change. Where is the old feeling? Where is the old style? I can't believe your own way died. Why don't you turn back? Where did you leave the blues? Do you really feel what you do? See the time when you were young, you're gonna find a way. I don't know what's in your mind. No, you got more to say. But years come and go, never try and change the fashion. Sometimes it's not easy to keep my opinions, but there must be something. I don't want to lose the reason why we go the way that we choose. So come on, my friend, why don't you let your music play? Don't forget the good things that you used to say. Can't you hear me calling? You know what I'm saying. I hope you're gonna find your new day. See the time when you were young, you will find out your way. I don't know what's in your mind, but I know you got more to say. Pezzo bellissimo, una frase melodica perfetta, una grande ballad dedicata a Rolly Gallagher, grandissimo. E poi non solo, ma questa contiene un po' un messaggio. Io di solito non scrivo testi, non voglio dare suggerimenti o messaggi a nessuno, però è l'unico brano che ho scritto dove c'è un piccolo messaggio rivolto agli altri musicisti. Cioè cercare di non perdersi per strada durante la vita, no, musicale. Cioè, cosa vuol dire, Rotolo? L'orientamento. Io voglio dire questo, che molto spesso si comincia a suonare da molto giovani in maniera pura e sincera, perché siamo tutti affascinati dallo strumento, dalla musica, da certi artisti di grande valore che ci ispirano a prendere in mano uno strumento la prima volta. Poi a volte si perde per strada perché per l'ambizione, per ambizione, per voglia di fare, di mostrarsi, di salire sul palco, no? Mm-hmm. E quindi quella ispirazione iniziale si perde molto spesso. Allora questa cosa che io dico è, perché questo non succeda, basta guardarsi indietro e ricordarsi come eravamo e la sensazione che avevamo la prima volta che abbiamo sentito musica e che ci siamo sentiti questo bisogno di prendere in mano una chitarra, un pianoforte, una batteria, cantare. Eh sì, questo è verissimo. Non bisogna dimenticare le proprie origini, praticamente. Back to the roots. Esattamente. È proprio quello. Senti, Tolo, a proposito di origini, tu sei, senza offesa, insomma, sei un veterano della musica, tra virgolette, no? Hai visto passare 40 anni più o meno di musica. Trovi grandi differenze? Ti piaceva di più quella musica degli anni 70 o la musica di adesso? Cosa hai visto cambiare nella musica, soprattutto? Quando io ho cominciato a suonare, eravamo nel 66, eravamo in piena epoca del beat qui in Italia, i Rocks, l'Equipe 84, poi la musica leggera. E io ho visto che c'è stata una rivoluzione musicale subito dopo il 66, già stava iniziando, e ho visto che i giovani non volevano ascoltare la musica dei loro genitori, ma non solo dei loro genitori, ma non volevano neanche saperne della musica dei loro fratelli maggiori. Quindi avevano bisogno di cose nuove. C'è stato un periodo che c'era questo bisogno di sentire cose nuove, e è anche strano, che è magico il fatto che tutti questi bisogni erano condivisi sia dal pubblico che dai musicisti che dai discografici. Perciò è stata l'epoca che oltre ai grandi, ai Beatles, sono usciti gente come Johnny Mitchell, l'abbiamo ascoltata prima, come i Led Zeppelin, come i Cream, come insomma tutta gente che ha rinnovato, che ha lanciato un ponte tra quello che c'era prima e quello che c'è stato dopo. Ahimè, però dopo non è che ci sia stato molto, perché quando poi è finita questa onda, siamo ritornati nella situazione precedente, quindi musica da vendere subito e presto e facile. Comandato da altri. E questo ormai dura da 20 anni, posso dire tranquillamente, certo. Anche di più. Anzi, le novità si sono fermate alla fine degli anni 80. Poi la musica degli anni 80 a me non è mai piaciuta, o quasi niente. però era nuova anche quella, queste cose, la new wave, il punk, erano cose nuove effettivamente. Poi siamo tornati nei primi anni 90 con il grunge, ma il grunge non è altro che riprendere la musica degli anni 70 più o meno, insomma non è che fosse questa gran differenza. Anzi, aveva le sonorità, il look degli anni 70, di 20 anni prima, senza avere i riff e le cose che ti rimangono nella cioè le idee così vincenti, così nitide, chiare, che avevano, cioè il grunge, non voglio offendere, ma c'era il gruppo come Nirvana, Kurt Cobain, a parte Nirvana, ecco, forse Nirvana avevano erano rivoluzionari, erano innovativi assolutamente, ma rivoluzionari no, ma innovativi, no, sì, assolutamente dai. No, però avevano delle idee musicali che, perché poi quello che conta è sempre la musica. Se uno ha un'idea che ti rimane in testa, perché è un'idea, perché è accattivante e non è scontata, soprattutto non è banale, ma è un'idea, cioè i riff di chitarra tipo, non so, oppure ma quello era tutte uno queste... solo, ma quello c'era uno solo che si chiamava Jimi Hendrix, non ce ne sono altri. Questi erano gli Zeppelin, ma sì, ma è la stessa cosa. Però no, è ma tutto quello che riguarda la chitarra, perché poi questa musica è fatta, anche il grunge era basato sulla chitarra. Certo. Se tu hai il motivo, quel riff di chitarra, quel motivo che resta in testa ed è bello, cioè a grinta tutto, ma se fai tante schitarrate e non ti ricordi e poi non ti resta niente, capito? Però questi sono giudizi miei personali, non mi permetto di... Ma possiamo salvare negli anni 80 gente come i REM, gente come gli U2, come i Radiohead? Hai detto bene, i REM sono un gruppo che mi ricorda molto la West Coast. Sì, però assolutamente. Sono stati attuali, cioè hanno rinnovato anche loro, cantautori, belle canzoni, tutte belle canzoni. Ce ne sono stati, sì, certo, sì. Ce ne sono stati. Però non hanno avuto quella rottura che aveva un Jimi Hendrix con Jimmy Page. Quindi la musica di oggi a me personalmente non interessa, non sento niente. Non vado neanche a cercarla, perché devo dire la verità, sono pigro e non vado in cerca di trovare col lanternino. La differenza, sai qual è? Che allora non bisognava andare in cerca. Era nell'aria, la sentivi dappertutto, questi musicisti che vendevano milioni di dischi ed erano dei geni innovatori, li sentivi per radio, sentivi... C'era anche poca scelta però allora, non c'era una vastità come c'è adesso, di artisti parlo. Ce n'erano di meno, dici? Sì. O quantomeno gli artisti sono sempre pochi. Bella, bella, bella questa. Senti, ti rubo 30 secondi. Prego. Svolta. Di festa in festa. Gli appuntamenti in Veneto. Gli appuntamenti in Veneto. Spettacoli, mostre, sagre ed eventi in Veneto. Alle 12.05 da lunedì a venerdì, in replica alle 17.05 e anche in podcast. Di festa in festa. Radio Veneto. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Tra questi pochi artisti forse ci sono i Cream. Eccoli. Perché tu li hai nominati spesso, hai scelto anche una canzone dei Cream da far sentire. Mm-hmm. Ti piacciono tantissimo, insomma. Ah, sì, mi piacciono come gli altri, non né più né meno che di Johnny Mitchell o... La seconda, certo, il Cream ovviamente c'è Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce, e sono quelli, i maschi così che suonano la chitarra, ovviamente io ho ascoltato, ho imparato molto da loro, Di Joni Mitchell è fantastica. Però una cosa fondamentale che gli ascoltatori non sanno, non c'era Eric Clapton, ma tu hai suonato con Ginger Baker e Jack Bruce, eri dentro i Cream, quello è bello. Eh sì, mi è successo di suonare con Ginger Baker, sì. Dopo magari racconterò. Ecco, dopo raccontiamo qualche aneddoto, qualcosa collegato a come hai suonato con loro. Certo, certo. Sentiamo il pezzo di Cream, che cosa hai scelto di Cream? I Feel Free. Ah, perfetto. Il primissimo brano che hanno composto, uno dei primi. L'ascoltiamo. Certo. Blue time live. Blue time. Live. Stai provando? Ah no, ci sto suonando sopra il disco. Che alchimia avevano questi tre mostri sacri secondo te? Che? Che alchimia avevano per costruire certe cose questi tre mostri sacri? Non lo so, Ginger Baker è un batterista, come abbiamo detto prima, un po' africano, jazzato africano, con dei ritmi e con delle sonorità proprio africane. Lui suonava molto sui tamburi, no? Certo. Molto sui tamburi, meno sui piatti. Eric Clapton è un chitarrista di estrazione blues, non è un mistero, lui certo. L'ha sempre detto e si sente, però anche lui ha rinnovato il blues con la chitarra più distorta. E invece Jack Bruce, bassista, è un grande. Bassista, un musicista, un grande compositore, certo. un grande cantante, che anche lui un po' arriva da jazz. Si sono messi assieme, è venuto fuori questa musica poi anche queste due voci, no, tra Eric Clapton, questi falsetti, esatto, questi in falsetti. Alcuni brani Cream usavano il falsetto, tipo proprio questo Alfie, certo. E mi ricordo quando ascoltai per la prima volta questi brani, tipo questa, c'era questa pesantezza di suono, di batteria, di basso, chitarra distorta e queste voci molto psichedeliche. È un marchio di fabbrica anche, certo. Di Cream. Di Cream, assolutamente. Ognuno aveva il proprio suono, il proprio sound. Pochi dischi, ma quelli giusti. Sì. Pochi dischi, pochissimi dischi, ma quelli giusti, chiaramente. Sì. Così erano i Cream. D'altronde, gente come Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce non potevano vivere assieme per tanto tempo. Ognuno è andato proprio giustamente per la propria strada. Le cronache dicono che sono stati insieme un paio d'anni, sì, perché poi non si sopportavano più. Non si sopportavano più. Queste tournée massacranti, questi continui combattimenti on stage sopra il palco di tra chitarre, basso, batteria. Sì, è vero. immagino, perché per esempio lui è Eric Clapton, un chitarrista molto lineare, molto uno stilista squisito della chitarra, con un suono meraviglioso, un impeccabile fraseggio fluido. E gli altri due invece erano là, spigolosi. Sì, esatto, si trovava molto spigolosi, quindi ne so qualcosa, voglio dire. Appunto, anch'io. Tu fai parte anche te. È difficile andare d'accordo. Magari hai la serata magica e poi c'hai questi... Ma mica ti rovinava, Jack Bruce non rovinava Clapton. Jack Bruce no, aveva... ma poi la musica era... Magari era faticosa o sofferta, magari mentre loro suonavano, però la musica è rimasta una cosa nuova, è una bella, affascinante sentire queste cose qui. Musicalmente i Cream... Dimmi. Parlavamo della musica di oggi, oggi è tutto perfetto, sì. Tutto già calcolato, predisposto. Tutto predisposto prima, ci sono i click, ci sono i metronomi, sai, i batteristi in cuffia hanno un metronomo, guai se fai sgarri, eccetera. È una cosa di una freddezza assoluta. Poi i cantanti ci pensano a scaldare il pubblico con le solite frasi d'effetto, ma in realtà la musica non è così. Esattamente. Maurizio, che dici? Facciamo quella domanda cattivella che facciamo sempre. Ma non so, ci vorrebbero 10 giorni per rispondere a una domanda no, simile. Ma noi la facciamo appunto ristretta, insomma. Allarghiamo un po' da 3 a 5, ma gliela facciamo ristretta, prego. Non lo so. Io ci provo. Prova, vediamo cosa dice Tolo, se è d'accordo. Tolo, fai finta di andare in un'isola deserta, la famosa domanda. Ti devi portare 5 dischi. Ma questa è una domanda che non mi è mai mai piaciuta. Ma non è una domanda cattiva. No, a parte gli scherzi. No, non è una domanda, però insomma, è giusto per sapere quali sono veramente gli artisti, o meglio, i dischi che proprio ti piacciono di più. Se ci sono, se ci dovessero. Ma io non avrei neanche bisogno di portarmeli allora, perché li ho tutti già in testa. Sei tutti a memoria, cari. Sì. No, forse dovrei portarmi qualcosa che non conosco. Ecco. O una chitarra. Ecco, una chitarra. Allora, per rispondere, come si dice, la domanda... La famosa domanda. Alla domanda io porterei... Forse porterei i dischi più che di valore ai quali sono più affezionato, gli artisti ai quali... affettivamente legato, per cui uno è Rory Gallagher, che abbiamo citato prima, qui hai dedicato un pezzo, chiaramente. Sì. Poi io ho portato un disco, dopo vorrei anche sentire, sentiamo qualcosa di Rory Gallagher, probabilmente un disco di Johnny Mitchell, sì, può darsi, forse un B.B. King, anche quello, sì, certo. Non lo so, una colonna sonora da un film, qualcosa tipo, per esempio a me piace molto Ben-Hur come musiche, ma a parte l'isola adesso sto solamente citando, certo. Qualche cosa che mi piace. Era una battuta lì. Era una battuta, così una... so che è complesso e difficile. Una sonata di Chopin. Ecco quello. Tipo questa, vediamo se riesco a farla. Rovinata, questa è la sarebbe la Berceuse di Chopin, che è un pezzo che mi piace moltissimo. E la fai dal vivo qualche volta, fra un pezzo e l'altro? No, questa la metto in coda in questo disco nuovo. Ok, benissimo. Ha un pezzo che si chiama One Sweet Night, perché ho trovato una strana analogia, collegamento tra le due cose. Ovviamente con le dovute distanze, però ho trovato questo collegamento, e per cui l'accenno, sì. Sì, sì, sì. Questo conclude il disco praticamente. La canzone, sì. E a proposito, visto che parliamo del disco nuovo, che uscirà fra quanto, Tolo, secondo te? Tempi tecnici dell'uscita saranno a settembre. A settembre, quindi fra poco, dopo l'estate, sì, sì, sì, comincerà ad uscire il sì, disco. Sì, questo disco contiene anche delle cover con degli arrangiamenti, ad esempio di God Only Knows dei Beach Boys. Che abbiamo sentito due settimane fa. Un arrangiamento molto diverso. Anche una degli Shadows. Mm-hmm. Arrangiata più a rock, e brani miei, l'abbiamo sentito prima, Easter Sunday in Texas, esatto. Poi c'è questa One Sweet Night, c'è Plains of Joy e altri tre o quattro brani, Alpine Valley, eccetera eccetera. Lo sì. Porterà in giro questo disco? Certo, chiaramente, in tournée, sì. già predisposto già tutto o quasi? Si chiama Stage List. Ah, Stage List, perfetto. Quindi nelle prossime puntate, da settembre in poi, Stage List solcherà i palchi italiani, o no, Tolo? Anche Blu Radio. Ben volentieri. Appena mi arriva, ve lo mando. Ben volentieri. Così lo facciamo sentire anche qualcosa da studio, insomma. Chiaro. Esatto. Dunque, vuoi che sentiamo qualcosa di Rory Gallagher? Non so che cosa hai in scaletta. No, aveva in scaletta qualcosa di suo. Ah, benissimo. Wake Up. Sentiamo qualcosa di tuo. Vabbè, mettiamo Wake Up. Perfetto. Questo è un Wake Up dal vivo dall'anno 82. Mm-hmm. 1982. Ok. Un pezzo si chiama Wake Up. Wake Up, 1, 2. Now think of this. Never is too late to open your eyes. Now look at that. The other rock and roll is coming back. These are the dreams. You can't catch what's coming off on my guitar. Yeah, that's not so real. Hey, your time, you know my son is gonna try to be a gun. Not a fly. I teach you to walk and not run, but not to fly. But I have to take it down. Shut it down, to take it down, to shut it down, yeah. Yeah. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Un'ora e mezza se n'è andata già, visto che abbiamo cominciato un po' in ritardo questa sera per motivi tecnici, ma siamo ancora qui, siamo in diretta, sono le 22:49, in questo istante, sempre con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con, posso dirlo, il grande Tolo Marton, insomma, che ci sta illustrando un po' con la sua chitarra, la sua musica, ma ci sta anche proponendo le sue scelte musicali. Sì, abbiamo sentito Wake Up, è interessante Wake Up per due cose. Prima, innanzitutto, Tolo ha fatto praticamente ristampare i vecchi dischi tuoi, vero Tolo? Sì. Inserendo però dei pezzi live dell'epoca. Sì, quello che abbiamo appena ascoltato si chiama Wake Up, che in questo disco che si chiama Reprints, è un CD doppio dove ci sono le ristampe dei primi tre vinili dell'81, 82, 83. Certo. Wake Up c'è sia nella versione del vinile dell'81, quindi originale da studio, okay. E poi c'è una versione dal vivo dell'82, registrata appunto in quell'epoca lì. Io suonavo con Fabio Sorti alla batteria e Carlo Landini al basso, era il mio trio. Ho ritenuto di aggiungere queste, si dice, bonus tracks, proprio per rendere anche il disco più interessante, non solo una ristampa, ma anche dar la possibilità alla gente di sentire che cosa e come suonavamo allora. Infatti anche io adesso, riascoltando questa Wake Up, mi sono un po' stupito di... la gioventù, no? Eravamo più giovani, c'è un po' più energia, cioè, forse eri più molto energico, più grinta, sì. Più spontaneità, anche più spontaneità. Così, questo è appunto Reprints. C'è molto di romantico però in te, in quello che suoni. Non sei spigoloso, come dicevi prima, insomma, fondamentalmente sei romantico nelle tue canzoni. O mi sbaglio, Tolo? È un... Ma forse sei più romantico nella musica, sì. Un sì, po', sì, nella musica. Nella musica tendo un po' a passare da momenti di molta energia, di molta grinta, ribellione, a momenti di dolcezza, romanticismo, così sì, forse sì. Dolcezza e romanticismo che hai utilizzato anche in un pezzo classico che hai suonato in cattedrale a Treviso. Famoso, che hai eseguito anche due settimane fa, ma lo riproponiamo, sì. Alpine Valley, che è un pezzo molto importante. Alpine Valley, sì, beh, certamente, anzi forse uno dei pezzi più importanti, perché poi nella vita ho visto che ho dovuto constatare che è uno dei pezzi più importanti. Cioè, ormai l'ho composto da 20 anni e vedo che ogni volta che viene eseguito sto brano, colpisce, esatto. Entra nella testa, nelle orecchie, nel cuore di tante persone. Alpine, però io l'ho suonato tante volte, adesso non è il caso. No. Ma dobbiamo solo sottolineare quell'epoca l'avevi suonato in cattedrale del Bellisio per la prima volta. Beh, no, beh, l'avevo già suonato. Poi mi è capitato di suonarlo anche con l'orchestra sinfonica, più di una volta mi è capitato, anche di recente l'ho suonato in Piazza dei Signori a Treviso, accompagnato da un'orchestra. Mm-hmm. Quindi è una cosa molto interessante, molto importante. Certamente. Poi nel 2010 hai fatto una cosa, un ritorno al passato, con... Tagliapietra e Pagliuca, sei stato invitato al famoso 40 anni del prog italiano a Roma. È stato un concerto incredibile. Sì. È stata un'occasione incredibile per suonare 35, dopo, i 40 anni del prog italiano praticamente. È stata un'occasione per ritrovarsi. È stata la prima edizione di questo prog exhibition. Esattamente. Del 2010. Era 2010 o 2011? 5 novembre 2010. Novembre 2010, sì. E... è stata una riunione, un ritrovarsi con Tony e Aldo Tagliapietra, suonando i brani delle Orme, e alcuni dei quali erano anche quelli di Smoke Magic, certo, come disco amico di ieri, certo, Los Angeles, Los Angeles. Alla registrazione di Smoke Magic c'ero anch'io, ho partecipato anch'io in quel famoso disco, in quel famoso disco americano a Los Angeles, così chiamato americano delle Orme. Sì. E questa riunione poi sfociò per un po' di mesi anche una piccola tournée che noi abbiamo fatto, che ahimè poi è finita come è finita, certo. ma è stata bella, per me è stata una bella esperienza tornare indietro così a una cosa a cui poi avevo rinunciato, per cui è stato molto significativa per me tornare con Aldo e Tony. L'ho vissuta molto bene, devo dire, con molto entusiasmo. Anche il pubblico l'ha vissuta con molto entusiasmo. Altro avete fatto tutti esauriti quando avete suonato. Altro che, il pubblico era entusiasta, sì. Ma non vi viene voglia di fare un disco insieme? Ma il disco in programma c'era, perché poi le richieste arrivavano, cioè c'era sia dei concerti che anche di un disco. Avremmo potuto fare un disco, sì, ma io stesso avevo un'ispirazione, c'è un brano, ve lo accenno, che avevo composto per loro, per questa reunion, che poi avrebbe avuto uno sbocco, uno sviluppo. Adesso io vi accenno la linea base, che adesso vediamo. Che mi è venuto spontaneo subito dopo che ho saputo di questa proposta, di questa reunion, e è stato, per quello che è durato, è stato bello, sì. Beh, anche il pezzo era bello. Mi spiace, io personalmente sarei andato avanti, mi spiace che poi le circostanze non abbiano permesso, è così, cosa vuoi, sono le cose della vita. Certo, assolutamente le cose della vita, però non si sa mai nella vita, cosa dici? Non si sa mai, può capitare. Finché c'è vita c'è speranza. Appunto, finché c'è viva c'è Aldo speranza. E Tony, se siete all'ascolto. Ma quindi avevi scritto. Se siete all'ascolto, vi saluto. Ecco, perfetto. Molto, molto caldamente. Avete scritto, cioè tu hai scritto altri pezzi per questo avvenimento oppure solo questo pezzo? Io avevo anche preparato, stavo cominciando a preparare un disco vero e proprio, pezzi, ma tutti noi stavamo cominciando a preparare altre cose per questo avvenimento, ma come dico, il tempo tecnico non c'è stato per portarli a compimento, neanche questo brano qui. Poi, Aldo aveva aggiunto un suo ritornello, quindi stava diventando una cosa molto molto piacevole, molto molto orecchiabile, ma anche intensa. Anche elaborata, sì, certo. Molto molto di impegno. Poi c'era anche David Cross di King Crimson che ha suonato con voi, ha dato una mano. Sì, era ospite, no, perché ospite. Questo Prog Festival era così organizzato, c'erano le band storiche italiane, certo, del Prog, che c'erano il trio. Che ex componenti delle Orme. Ex componenti. E poi c'era la PFM, certo, la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso, e ognuno aveva un ospite. Per esempio, noi avevamo David Cross dei King Crimson, e mentre la PFM aveva Ian Anderson di Jethro Tull. Quindi è stata un'ottima compagnia. Poi di questa esibizione c'è il DVD, c'è tutto. Fedelissimo tutto lo spettacolo, sia DVD che CD, un bel documento, sì. Bene. È una bella parte della carriera di Tolo, anche questa, vero? Sì, sicuramente sì. Credo che ci vorrebbero più spesso queste manifestazioni, ma non per il fatto di riunirti te, ma proprio per lo scopo, per fargli proporre la vecchia musica. Ma sai, ma guarda che quest'estate abbiamo avuto tantissimi concerti anche qua nelle nostre zone, nel Veneto, dei grandissimi, Crosby, Stills, certo. Nash, c'è stato Neil Young, è stato pochi giorni fa, sì. Neil Young, poi c'è stato Santana, c'è stato Bruce Springsteen, c'è stato, insomma, non mi vengono tutti i nomi, ma ce ne sono stati tanti. Parecchi, tanti. Vuol dire che la musica di un certo Patti tipo... Smith. Sì. Musica di un certo tipo è anche sempre valida, non è mai tramontata, sì. Continua ad essere... Sì. E Patti Smith è una grandissima. Tu non hai mai suonato con Patti Smith? No. Perché ma no? io ho suonato con pochissimi. Beh, insomma, non mi pare, dalla lista che abbiamo qua. Non vado in cerca neanche. Poi non... Ma così non si sa, cioè, un'esibizione, voglio dire. Cioè, può capitare. Non si può mai dire nella vita. Appunto. Non certo nome. No, per me va bene andare avanti e suonare quello che mi piace. Se poi capita di essere ospite di qualcuno, è tutto in più. Mm-hmm. Tutto in più. Come ad Austin. Esattamente. Come è cominciato da Austin. C'è un artista dei giorni nostri di piacerebbe suonare insieme su un palco? Beh, artisti viventi, io sì, li chiamo, sì. Steve Winwood. Wow. Piacerebbe molto. While You See a Change, mi piace. Ma anche in Italia con Pino Daniele, per esempio. Mi piacerebbe. Io stimo molto Pino Daniele, fin dalla prima volta che l'ho sentito suonare in televisione, l'ho sentito suonare dalla trasmissione di Renzo Arbore, eravamo nel 77, 76. Sì. Prima ancora proprio che lui stava uscendo in quel periodo lì. Dell'esplosione sua. Sì, sì. Vabbè, è un grande chitarrista anche lui, decisamente. Ma mi piacerebbe anche comporre. Mm. Mi piacerebbe comporre per gli altri. Mm. Ecco, questa è una cosa che per me forse ancora di più mi piace l'idea. Non hai mai scritto per gli altri, escluso i pezzi con le Orme, con Smoke Magica. Non hai mai scritto altro. No, ho provato a scrivere per gli altri, c'è stato un periodo che mandavo anche delle canzoni, ancora negli anni 80, che mandavo delle canzoni a qualche discografico, qualche produttore, eccetera, perché ripeto, è la mia seconda aspirazione, proprio quella di comporre, perché io come cantante non mi considero un cantante così, non ho una voce fortunata, ma... Cosa vuol dire una voce fortunata? Cosa intendi come se fosse fortunata? Perché c'è anche la voce sfortunata. È un'immagine che mi è venuta in mente in questo momento. una voce, diciamo, impostata, una voce precisa, bella, per cui... anche cantare certe canzoni mie non è che siano il massimo... Però mi piacerebbe comporre delle musiche anche non destinate a essere eseguite da una chitarra, certo, o così, proprio anche da un'orchestra. Anzi, ne ho composte, qualcosa ho composto. Ad esempio questa qui, io l'accenno appena, è un brano che... un brano che ho composto nel 99 e non è certo, non l'ho composto per farlo io, perché ho sognato l'ho con l'intento di farlo sentire e farlo magari eseguire da un'orchestra con tutti gli arrangiamenti. Certo. Adesso facciamo ascoltare qualcosa del tuo amato Rory Gallagher. Sì, dai, sentiamo un brano dei Taste, che era il primo gruppo di Rory Gallagher, che si chiama What's Going On. Questo dopo dico una cosa su questo brano. Perfetto. What's going on? Can you correct my vision? Helping my decision? What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air. You know as well as I do now, to get to you somehow. No, non sta. No, la sono abbassato un pelo. Abbiamo tentato un esperimento strano, Maurizio, hai visto? Eh sì, Rory Gallagher e Paolo Marton online, precisamente. Io gli volevo abbassare totalmente la musica. Però si è accorto, quindi... Cosa avete combinato? No, volevo abbassarti la musica del disco e far sentire solo te che stavi suonando. Cari ascoltatori, io ho visto come seguiva, cioè... Praticamente hai fatto un duetto con Rory Gallagher. No, io ho doppiato da solo. Un duetto virtuale. Sì, ma non doveva essere trasmesso. No, doveva essere trasmesso. Assolutamente doveva essere trasmesso. Questo qua, questo brano What's Going On dei Taste. Ecco, qua si sente lo stile di Rory Gallagher alla chitarra, cioè uno stile unico, perché un fraseggio così lo faceva solo lui. Certo. È imprevedibile, proprio imprevedibile completamente. Là dove magari Eric Clapton è prevedibile, c'ha uno stile stupendo, però il suo fraseggio è blues con l'aggiunta di un tocco. Si sa dove vuole parare, praticamente. Invece Rory Gallagher aveva questo fraseggio ribelle, disperato a volte, ogni tanto, che non riuscivi a capire da dove arrivasse questo stile sulla chitarra elettrica. Poi era velocissimo. Sì, beh, certo, ma ce ne sono anche più veloci. Sì, però più veloci, però non con questo stile. Tipo Alvin Lee, non so. Sì, Alvin Lee, altro immenso. Poi la velocità è e conta fino a un certo punto. Sì, appunto, ci vuole anche, ecco, lo spirito. Questo per far sentire questo strano brano What's Going On. Dei Taste. Ma ci sono dei gruppi, per esempio, mi vengono in mente dell'epoca I Patto. Ah, I Patto, sì. Che facevano Mike delle Patto. Cose assurde, proprio stranissime, musicali, ma molto sperimentali. Era un'altra epoca. Esattamente. C'era una libertà totale di sperimentare, che adesso non c'è, perché non ci sono gli stimoli, non lo so. Sì, una volta c'era sta libertà di sperimentazione e trovavi chi poi era interessato anche a farla, a portarla al pubblico. Sì, questa a inciderla, libertà, a farla sentire. A inciderla. Adesso non c'è più. Si parla sempre di questa cosa qui. Purtroppo è la realtà, c'è poco da fare. Pori vecchi. A te piace moltissimo suonare dal vivo, vero? Sei proprio un assertore fedelissimo di suonare continuamente dal vivo, perché ti piace proprio tantissimo. Sì. Sul palco sei tu. Sì, mi piace molto suonare in generale dal vivo, anche in una stanza di fronte al pubblico, di fronte a due persone. Per me è la vita fare musica. A te piace molto? Mi piace molto, sì. Dal vivo poi di fronte alle persone c'è un bisogno, c'è uno scambio di energia. Che rapporto c'hai con i tuoi fans, il tuo pubblico? Ma il pubblico, io, il mio è un rapporto un po' difficile, perché non essendo io una persona molto comunicativa, è difficile, non so come spiegare, perché la gente mentre suono mi guarda con il mento tra appoggiato alla mano, così, no? Come se stesse davanti alla televisione. e io questa cosa qua dopo un po' mi nervosisce, perché capisco che non ho quel tipo di approccio in palco che scatena reazioni visibili, però con la musica do molto, mi sforzo di dare molto con quello che faccio con la musica, e avrei bisogno dell'energia che io do, che mi torna anche indietro dopo un po', altrimenti anche sul palco mi vengono i crampi, altrimenti sulle mani, cioè, mi innervosisco. Ma mica tutti saranno con il mento appoggiato, no? Cioè, la mano, no? Ma stranamente ogni volta che guardo, io guardo poco la gente, perché non alzo la testa tante volte, lo sguardo. Guardo troppo la tastiera della chitarra, però quando poi alzo lo sguardo mi si cade regolarmente su questo qua che, oppure per ancora peggio, uno che fa uno sbadiglio micidiale di gusto. No, comunque poi dipende da dove vai a suonare. Ci sono delle zone dove c'è molto più partecipazione, calore espresso, non trattenuto. Perché devo dire che io so che a tante persone si divertono, a cui piace sentire la musica, sentirci suonare, lo so, però ognuno ha il suo pubblico. Certo. Il mio è questo tipo di pubblico qua. Ho capito. Ma no, adesso stiamo un po' esagerando. Sto scherzando. Sì, appunto. No, ho un po'... Guarda, l'altro giorno vi devo dire che c'è stato questo concerto, abbiamo suonato proprio a Treviso, la mia città, dopo tanti anni, devo dire, che non venivo chiamato a Treviso, e questo concerto era Suoni di Marca, un festival che si sta sempre allargando sempre di più, sta diventando sempre più importante. È vero. L'altra sera c'era la PFM appunto lì a suonare. E noi abbiamo suonato domenica 28 luglio, era strapieno, ma tante migliaia di persone, capito? E tutti ascoltavano, tutti erano felici, lì ho visto tanta gente felice e io lo ero felice, certo. Anch'io, è stata una bellissima serata, una bellissima esperienza. Ottimo, ottimo. E i prossimi tuoi concerti invece quando li fai? Allora, sabato, adesso agosto... Me la prendo un po' comoda, esatto. Di la verità. Ti riposo un momento. Ho una serata sabato a Ferrara, a Rovigo, non ti so dire adesso dov'è. Comunque c'ho una serata lì, con, sono ospite del gruppo di Simone Bistaffa, che Simone tra l'altro suona la tastiera e proprio suona con me nel mio gruppo. Ah, perfetto. E faccio uno vuoi ricordare i componenti del gruppo di adesso? Il gruppo di adesso è formato da Andrea De Marchi alla batteria, Walter Darfar al basso, Simone Bistaffa alle tastiere e Davide Sanson alla chitarra acustica. Te la chitarra elettrica? Io la chitarra elettrica, voce. Quindi sì. Siete in cinque? Siamo in cinque. Sono sì. Anche quelli che hanno suonato nel tuo disco di prossima uscita? Come dicevo prima, il disco di prossima uscita l'ho suonato solo assieme a Andrea De Marchi. Certo. Tutto il resto l'ho è stato chitarre, anche qualche tastiera, voce, sovraincisioni varie. Però dal vivo li farete questi pezzi assolutamente. Certo, certo. No, anzi, questo disco rispecchia proprio il repertorio che facciamo dal vivo. Da un anno a questa parte. Perfetto. E ad Austin quando ritorni? Ma a Austin spero di andarci ancora. Adesso ho mollato un po' il discorso dell'America da un po' di anni. E è considerata la parte della musica dal vivo? Sì. No, sai, non so se è più come una volta a Austin, però penso che ci andrò senz'altro. Non posso non andare ancora. Fa parte del tuo cuore. Ho anche tante persone, amici lì. Immagino. Sì, ci vado senz'altro. Ma mi pare tu abbia suonato anche non qualche anno fa in Slovenia, è possibile? Macedonia, perdono, sì. Sì, io sono andato a suonare un festival, ma era qualche anno. Sì, più di qualche anno fa. All'inizio del 2000, cioè. 99. Sempre nel periodo 99, di tante esperienze che tu hai fatto. Ecco. Adesso devo andare anche in Germania. Sono andato anche in Croazia, sono stato in Slovenia. Con quella formazione, per esempio, con Guitarland, di cui parlavi prima. Esattamente, Guitarland. Sei chitarristi. Abbiamo suonato in Slovenia, no, in Croazia. Sì, all'estero mi piace andare all'estero, vorrei andarci più spesso perché anche lì, poi in Germania, al nord Europa, c'è un pubblico competente anche. Molto, molto simile a quello americano, devo dire, sì. Che non sbadiglia. Senti Tolo, ci fai qualcosa adesso dal vivo, dai. Ma io volevo mettere su qualche disco, sinceramente. Non vuoi portato... io volevo. No, perché ho portato, vabbè, ho portato mi fai delle però... selezioni importanti anche da... Mi fai poi un po' quel medley del country western? Guarda, l'ho fatto già prima, l'ho accennato. No, prima hai fatto un Morricone. È quello, era quello. No, ce n'è un altro ancora più sul... Vabbè, ci penso a cosa fare. Beh, che pezzo abbiamo scelto adesso, Tolo, più avanti, in scaletta? Adesso c'è... È il discorso che dicevo prima, che secondo me ha una vena molto dolce, molto romantica, Tolo, perché hai scelto il Santo e Johnny. Allora, Santo e Johnny, sì, perché io qui ho portato dei dischi molto diversi l'uno dall'altro, anche perché ho portato le cose che... alcune cose che fanno parte della colonna sonora della mia vita. Quindi Santo e Johnny li ascoltavo quando avevo 8 anni, 9 anni e mi hanno anche infuso questo amore per certe sonorità della chitarra, perché loro suonavano la chitarra hawaiana. Sì, certo. Ascoltiamo la loro versione di Summertime, che è stupenda, dovete sentirla, probabilmente la conoscete già. Ascoltiamo. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Credo, Maurizio, sia la prima volta che inseriamo, almeno io con te assieme, insomma, una canzone di Santo e Johnny. Sì, è la prima volta anche per me. Giustamente diceva Tolo mentre il pezzo andava, sono stati i primi in assoluto che hanno portato alla conoscenza mondiale la chitarra hawaiana. Sì. Chi la conosceva? Non conosceva nessuno. Ma poi avete sentito che razza di espressività, di stupenda, dai, una summertime così... meravigliosa. E Santo Johnny è stato questo disco Summertime, poi c'è anche Uptide, sì. Ci sono altri brani, io l'ho ascoltato tanto quando ero piccolo, ascoltavo tutti i giorni, mettevo su 45 giri, bellissimo. E adesso andiamo a ascoltarne un altro, ma non di Santo Johnny, di un... Quando si parla di primo rock and roll degli anni 50 si parla sempre di Elvis Presley, si parla di Eddie Cochran, sì. Di Billy Haley. Billy Haley, Chuck Berry, certo. Anche Jerry Lee Lewis, sì. Fortissimo. Però per esempio io ho portato sto disco di uno minore che, guarda caso, ce l'avevo perché ce l'avevano le mie sorelle maggiori, e questo si chiama Jack Scott. Ecco, io non lo conosco Jack Scott. Immagino. E invece mia sorella c'aveva questo disco che si chiamava, questo brano che si chiamava Leroy. E sentite che bella rock and roll che era. Perfetto. Ascoltiamo. I know a boy, he was never blue. Now he lives in a cell block too. I don't know just why he's blue. Leroy, what you do? Well, Leroy's back again, again. Leroy's back. Leroy's bail. The judge says, son, don't you tell me no tale. Leroy, he gonna stay in jail. Leroy's back in jail again. Leroy's back in jail again. I don't know why it's blue. Leroy, what would you do? She's got the blues. She let you wear my long pony shoes. So Leroy's back in jail again. Leroy's back in jail again. I don't know why it's blue. Leroy, what do you do? Boom, yeah. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Now Leroy's heart is full of hate. He just can't go straight. Tell my men he can't keep my debt. I'm gonna be by 6 months. Leroy's back in jail again. Leroy's back in jail again. I don't know why it's blue. Leroy, what you do? Well, Leroy, what you do? Leroy, Leroy, what you do? Leroy, Leroy, what you do? Leroy. Blue time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua. Ok. Rock and roll, puro rock and roll, vero Tolo? Io questo musicista non lo conoscevo, ma mentre il pezzo andava si è sciolto le dita, come si dice, Tolo, sì. Ha cercato di seguirlo. Fai un pezzettino di rock and roll che facevi prima. C'è questo tipo di chitarra che tra le pieghe di questo brano c'è questa chitarra che era fantastica. Non so neanche come si chiama il chitarrista che suonava con Scott praticamente. Leroy. Allora loro suonavano con un eco che raddoppiavano, facevano e dopo veniva fuori. perché io adesso sto suonando doppio, doppio, però l'effetto era, loro lo facevano spesso con un eco che raddoppiava il suono. Cosa? Per chi è ignorante come me, cosa significa suonare doppio? Suonare invece di dare, beh, non è proprio un termine, comunque fare doppia pennata, cioè quindi suonare una nota due volte. Invece che fare, fai. Comunque adesso mettiamo su quello degli Shadows. Sì, certamente, come no. A proposito di Echo. Echo, ne hanno fatti tanti Echo loro. Sì. E sono famosissimi per un pezzo nel mondo, ma non hanno scritto solo quello, ne hanno scritti altri. Adesso ne sentiamo uno non famosissimo, ma che a me piace molto, si chiama Theme for Young Lovers. Ok. E prestate attenzione, eh. Fantastico, no? Hai visto come si fa? Chi era il chitarrista di Shadow, te lo ricordi? Hank Marvin. We'll be right back. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sì, abbiamo sentito la versione rock del pezzo degli Shadow, tutto dal vivo, cari ascoltatori, tutto dal vivo, assolutamente. Sì, qua, no, questo sì, beh, chiaramente, questo sì. È il disco. Sì, nuovo. Dal disco, però è una versione live, possiamo dire. Vi abbiamo fatto sentire la versione originale degli certo. Shadow, versione che poi anche noi suoniamo spesso così. Volevo includerla nel disco, in questo disco nuovo, quindi sono andato in studio con Andrea De Marchi, l'abbiamo suonata come va suonata, però dopo per un secondo, proprio appena finito di suonarla come suonano più o meno gli Shadows, ho detto ma aspetta che proviamo a cambiarla, perché è giusto anche cercare di renderla più un po' più personale, e sono partito appunto con questo. In questo ritmo, un po' più rock, così è meglio, perché meglio nel senso che è meglio includere un brano riarrangiato, visto che è una cover, abbiamo provato a farlo un po' in maniera diversa. È come la suonassi dal vivo, per quello voglio dire, come il primo sì, approccio. Ma lì è venuta fuori dal vivo. Appunto, quello voglio dire. Sono partito con sto ritmo, ho detto Andrea dai fai una bella cavalcata con la batteria, facciamola più dura, più così, ma il tema è lo stesso identico. Sì, identico, lo stesso. L'avete riveduta e corretta voi. Esatto. Diventa vostra praticamente. Sì, un po' sì. È un po' così. Un po' sì. Adesso Maurizio facciamo un omaggio a un cantante che ha scritto tantissime canzoni, specialmente per Eric Clapton. Una in particolare, Cocaine, mi viene in mente. Sto parlando di J.J. Cale, che ci ha lasciato il 26 luglio. Sì. Non mi ricordo male. Sì, venerdì mi pare. Sì, ha fatto un infarto. Pochi giorni fa, purtroppo. Sì. J.J. Cale per me, io quando dipingevo, io avevo la mania della pittura, di dipingere paesaggi. Negli anni 70 io avevo sempre, sul piatto del giradischi, avevo sempre questo disco di J.J. Cale. Perché era così rilassante, più bello che era, e intanto dipingere era stupendo. J.J. Cale è stato un musicista che al di là di quello che si dice, ovviamente, che è importante, perché ha scritto brani che poi Eric Clapton ha reso famosi, eccetera, ma lui, il fatto stesso che lui abbia avuto tanto successo, J.J. Cale, per me è stato un incoraggiamento, perché uno così, che sembrava un barbone, che sembrava una persona che se ne strafregava di tutto, di tutti, non certo dato al business, eppure ce l'ha fatta. E allora per me è stata una fonte di ispirazione e mi ha infuso fiducia nel futuro, perché è così. Ma poi lui... C'è gente tipo Mark Knopfler degli Dire Straits che secondo me deve tantissimo. Deve tutto, sì, non quasi. Tutto, ma deve tanto. Deve sì. Tanto a J.J. Cale, eccetera. Io ricordo che sentivo spesso volentieri un disco che si chiama Troubadour. Regina Troubadour. Regina Troubadour. Io ricordo proprio la grafia del disco. Proprio no, Troubadour, Troubadour. No, scusami. Sì, no, il disegno del disco lo sentivo spesso volentieri. Maurizio sta parlando di Troubadour. Che è il disco che ho portato io. Proprio quello. Parlavo proprio quello. Troubadour. Sì, Regina Troubadour è un pezzo delle orme. E ricordo che c'era una confezione tripla, tre dischi in un unico solo. Una confezione all'epoca veniva stampata in vinile, e ricordo proprio di aver preso quella confezione là e c'era questo disco meraviglioso. Sì, stupendo, perché poi è il suo modo di suonare, di cantare, di così rilassato. Sì, esattamente. Rilassante. Eppure è così unico, perché lo riconosci subito. Immediatamente, sì, immediatamente. Sentiamo allora? Sì, ci ascoltiamo i Baby. Ok. It's too time now. Quella? Sì. Troubadour, J.J. Cale. Hey baby, time now. Hey baby, you made it somehow. Don't let nobody come and bring you down. Hey baby, you got them on the run. You know you got them on the run. I know you had just begun. When you came into my life, I thought I would die. I'd never meet nobody like you. Take away this blue. Hey baby, you look amazing. Probabilmente Troubadour è il disco più conosciuto forse di J.J. Cale. A me personalmente piace di più Grasshopper, che sono 5-6 anni dopo, nell'82 sì, se non sbaglio, sì, e sì. Che proponevo spessissimo in radio, c'erano diverse canzoni, però sai, poi la musica è soggettiva, questione di gusti. Sicuramente per me, che non sono un critico musicale, io mi affeziono sempre alla prima cosa che ascolto, certo. E dato che la prima cosa che ho ascoltato di J.J. Cale è stato proprio Troubadour, mi sono affezionato, l'ho ascoltato tantissimo. E c'è il Procione in copertina, esatto, giusto? C'è proprio il Procione, mi ricordo, sì, sì. Quello. Lo ricordo per quello soprattutto. Io lo tengo in sottofondo. Abbiamo ancora una ventina di minuti scarsi, Tolo. C'hai qualcosa in mente? Vuoi suonarci qualcosa? Facciamo sempre sentire dal disco. Qualcosa, un pezzettino dal vivo. Ma io sinceramente mi piace tanto ascoltare. Allora facciamo così. Più che suonare in questo momento. Beh, alla fine. Allora, adesso ascoltiamo. Ascoltiamo. Mi piace di più ascoltare. Ci salutiamo con qualcosa dal vivo, va bene? Certo, un po' più tardi, sì. Un po' più tardi. No, ma sarebbe bello anche ascoltare, per esempio, un brano di Jimi Hendrix a questo punto. Sì, che scaletta? C'è in scaletta? No, adesso c'è un altro omaggio a una retrospettiva dei Buffalo Springfield. Ah, bello, i Buffalo Springfield. Ecco, sì. Neil Young e Steve Stills. Ho portato tanti dischi, effettivamente non si può ascoltare, non c'è il tempo per ascoltare. Ma Hendrix lo troviamo il tempo per sentirlo. Sì, ma c'è in scaletta, subito dopo. Sì, sì. Perché i Buffalo? Velocissimamente, perché i Buffalo? Buffalo Springfield. Ma anche perché anche loro fanno parte di quel genere di musica, questo disco in particolare, che mi hanno formato, mm-hmm. Gioventù, sai, ci si affeziona, no? facile, è un sentimento naturale, umano, il fatto di affezionarsi alla musica che si conosce, che si è ascoltata molti anni prima. Certo. È normale. E due... Io non ne sono immune. No, chiaramente. Due grandi personaggi come Stephen Stills e Neil Young andavano d'accordo. Era un po' difficile, però sono andati d'accordo per un periodo di tempo. Per un piccolo periodo di tempo. Sentiamo che pezzo hai scelto dai Buffalo. Io ho scelto Mr. Soul, però mi piace bellissimo. anche molto For What It's Worth. Sì, il più famoso. Sentiamo Mr. Soul, va benissimo. Ma mettiamo Mr. Soul giusto per dare un po' di carica. Esattamente. Ok. Ti vedevo molto assorto, Maurizio, ad ascoltare questa canzone, perché sono i tuoi idoli. Beh, questo è Mr. Soul, è un pezzo famosissimo e si sente al 100% che è stato scritto da Neil Young. Adesso non abbiamo tempo di raccontare, ma Neil Young girava il mondo, si è conosciuto con Stephen Stills perché lui girava su un carro funerario. Ah, questo non lo sapevo. Era un pazzo convinto, girava su una macchina normale, su un carro funerario. Si sono conosciuti così nel famoso ponte che divide gli Stati Uniti dal Canada. È una storia molto bella che anche ha raccontato Enzo Guaitamacchi nel suo famoso libro dei 500 file. Di cui abbiamo parlato un po' di mesi fa, no, un po' di settimane fa. Quindi hai scelto i Buffalo, adesso sceglierai. Cosa hai scelto adesso, caro? Di Jimi Hendrix. Allora, adesso... pensavo di farvi ascoltare un brano di Jimi Hendrix un po' meno conosciuto. Noi, i classici. Perché io sono Bastiano Contrario. Ma io ti appoggio, però... sai, perché anch'io sono come te, nel senso che mi piace veramente scoprire le canzoni meno conosciute, meno popolari, proprio perché magari spesso e volentieri sono anche più belle rispetto a tante altre. Ma a volte sì, anche, però sai, questo brano adesso... anche questo è uno di quei brani di Jimi Hendrix che ho ascoltato molto e c'è tutta questa commistione, non è che sia un brano, un hit, è solo una specie di jam di chitarre che lui ha sovrainciso e fa parte di un disco postumo, perché poi uscì con Rainbow Bridge, lui certo. era già morto, si chiama Pali Gap, mm-hmm. Pali Gap, che è un brano che racchiude molte sonorità, percussioni, eccetera, eccetera. Tra l'altro io Pali Gap l'ho registrato in un disco, poi ho fatto una versione nel 99, in un disco che si chiamava Colors and Notes. Sì. Comunque è bello sentire questo brano qua, è magico come sonorità, è magico. Ascoltiamo. Hai fatto tu il finale. Jimi Hendrix 1970, stato ristampato 70. Mm-hmm. Dopo la morte, chiaramente. Adesso abbiamo in scaletta, hai scelto Rory Gallagher da solo, non più con i Taste, vero Toro? Sì, da un disco del 73 che si chiama Blueprints. Questa è una bellissima ballata che si chiama Daughter of the Everglades. Ok. E poi torniamo in studio e ci salutiamo. Ci salutiamo. Were you raised by the river down in the lowland, where the air is dark and sinister and the night there's no safe place to stand? Hidden reeds arise to peak, voices I can't understand. Flamingos playing endlessly silent sky. Daughter of the Everglades, you never made it clear. Daughter of the Everglades, if you wanted to be here, shine like the river. I never saw your tears. Well, you look like your mama. Talking fisherman. In this place there is no law, the river makes all the rules. What they are I found out when I came to look for you. Daughter of the Everglades, why did you bring me here? Everglades, my love has turned to fear. Child of the river, let me feel you there. Tell me you have drowned. Bene, anche Rory Gallagher è stato esaudito praticamente. Bene, bella allora. Bella canzone, bella, bella. Bellissimo, un pezzo bellissimo. Proprio bella. Tollo, siamo arrivati alla fine, vedi, anche 3 ore passano velocemente comunque, in ogni caso ti aspettiamo sì. Per una terza puntata magari quando avrai il disco nuovo, perché no? Certo. Magari con qualche musicista in più. Spero di sì, spero anche che i nostri ascoltatori si siano... Se Maurizio, la siano, se li vuoi sistemare... Se la siano passata bene, che abbiano... Vi ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, che... È lunga, 3 ore sono tante. Sì, però no? 3 ore scarse, non sono sembrate. Però la musica era bella. Non sono sembrate 3 ore di non sono state per niente pesanti. Quando la musica è bella, la pesantezza non esiste. Andiamo, possiamo andare avanti oltre. Chiaramente 3 ore possiamo, dobbiamo chiudere, però è così. Senti, Tolo, prima di chiudere i tuoi dati, se qualcuno volesse contattarti. Ma guarda, come dicevo prima, a questo periodo non ho molte date. Le ho fatte luglio, giugno, ma adesso quest'estate in agosto sono un po' fermo, poi riprendo a settembre. A settembre suonerò vicino ad Osson, vicino a Treviso, il giorno 15. Il 13 mi cogli impreparato perché non ho portato il mio calendario. Il 13 settembre suono a Semonzo sul Grappa, all'Asgard. Asgard. Però vi invito a andare a vedere nel sito internet www.tolomarton.com, dove ci sono tutte le informazioni, le date. Ogni tanto, magari una volta alla settimana, andate a vederlo, anche ogni due settimane, lì ci sono tutte le date. Diciamo anche che il titolo del disco nuovo che uscirà a settembre. Il disco nuovo si chiama Stage List e uscirà a settembre. Quindi di prossima pubblicazione. Di prossima pubblicazione. Bene, prima di salutarci con l'ultima canzone che ci suonerà Tollo Martone, vi ricordo giovedì prossimo l'appuntamento sempre qui alle 21 con la musica italiana d'autore, un po' raffinata, con Maria Gelfi e il suo progetto Aruspica, insomma, da ascoltare anche quello, ovviamente, come tutti i nostri live acustici, proprio perché per la raffinatezza sarà qui presente dalle 21 in poi. E tu, Maurizio, invece, sì. Ci sentiremo anche lunedì. Sì, Giro ricomincia lunedì con live di un gruppo GTO, un gruppo molto interessante, chiaramente tutti i gruppi interessanti che propone la nostra radio. Come sempre. E ringraziamo anche tutti gli ascoltatori per l'ascolto di sabato, che sono stati tantissimi, abbiamo fatto una lunghissima diretta, veramente un grazie di cuore da tutta Blu Radio Veneto. Tollo, con cosa ci saluti? Vi saluto con un brano notturno mio che si chiama Sleepless. E se posso, vorrei dedicarlo a un amico che in questo momento purtroppo sta combattendo contro una brutta malattia. Ed è un amico qui proprio di Padova che si chiama Adriano Vettore. Lo saluto e gli dedico questa canzone che si chiama Sleepless Man Blues. Ciao e grazie ancora, grazie ancora Tollo. If you can sleep at midnight, don't worry about it, baby. If you can sleep at midnight, don't worry about it, baby. But if you don't sleep at 3, you won't close your eyes all night. If you don't sleep at 5, soon the morning sun gonna shine. If you don't sleep at 5, soon the morning sun gonna shine. But if you can't sleep at 3, you won't close your eyes. Oh. so you will. You better get up, put on your shoes. So when it happens to you, you better get up, put on your shoes. Gotta forget the bedroom, cause you got the simplest man blue. Ciao Adriano.